Vendo tutto di Matteo Caccia. Da quando ho iniziato il programma ho smesso di giocare a tennis, sciare, suonare la chitarra, stirare, girare in Vespa e andare a teatro. Perché le abitudini sono sempre legate alle cose che possediamo. Eppure io continuo, io vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una webcam. Radio 24, sono le 16:08, buongiorno a tutti. Oggi vendo una webcam e quindi parlerò di quello, ma soprattutto parlerò del fatto che con questa webcam sono riuscito a mantenere vivo un rapporto a distanza, per l'esattezza erano 2000 e forse più chilometri di distanza, per ben 6 mesi. E quindi in realtà è di questo che parliamo oggi. 800 24 0024 per chiamare, oppure 349 238 6666. Solo persone che hanno in questo momento un rapporto, che sia un fidanzamento o un matrimonio, a lunga distanza. Lunga distanza quindi non vuol dire Milano-Cornaredo, vuol dire almeno Milano-Firenze, insomma ci devono essere un po' di chilometri in mezzo, un treno da prendere o un'autostrada da fare. Tra l'altro oggi, meravigliosamente sul pezzo, è uscita una ricerca dell'Istat che si chiama Pendolari della Famiglia. Ed è una ricerca che ovviamente, perché tutte le ricerche, sapete, tracciano un trend. E quindi il trend, anche se non c'è, lo tracciamo pure noi. Il trend è quello che le coppie tra i 30 e i 40 anni cominciano, per motivi di lavoro e soprattutto di mancanza di fondi e di soldi, a vivere lontani tra di loro, anche se sono sposati e anche se sono una famiglia. I numeri sono 2 milioni e mezzo di italiani, che non sono pochi, sono il 4,5% della popolazione, vivono a distanza nonostante abbiano figli e abbiano un marito e una moglie. Ci sono alcuni casi, ad esempio Pietro, 37 anni, fa l'archeologo e dice: la nostra vita da pendolari funziona così, da lunedì al venerdì lavoro a Roma, il fine settimana vado a Padova da mia moglie e mia figlia, mentre per una settimana al mese mia moglie viene a Roma con mia figlia. Mariangela, un'altra, questa è interessante. Mariangela è entrata di ruolo a 40 anni per insegnare al liceo e si è dovuta spostare, è andata a vivere a Roma, mentre suo marito e i due figli di 5-6 anni sono rimasti a Sorrento col marito, chiaramente. Così a 40 anni sono tornata a fare l'universitaria con altre due colleghe fuori sede, adesso dividiamo un appartamento, viviamo un po' come ragazze, ascoltiamo la musica, eccetera eccetera. Ascoltare la musica si può fare anche quando sei un anziano, ma va bene così. 800 24 0024, oppure 349 238 6666, solo se avete, state vivendo relazioni a lunga distanza, ho proprio voglia di sapere semplicemente dove vivete, dove vive il vostro compagno, la vostra compagna, e come fate da lunedì al venerdì, sabato e domenica, oppure part time verticale. Sono quelli che fanno il part-time verticale, 3 giorni di 4 giorni di... Il nostro Paolino Corleoni, ad esempio, giusto per non farci i fatti delle persone che lavorano con noi, è di Pesaro, ha conosciuto la sua fidanzata sulla spiaggia di Pesaro, giusto? Pesaro, sulla spiaggia di Pesaro, lei vive a Roma e lui vive a Milano e vivete nei weekend. No, come fai? Due volte al mese vivete, quante volte? Per quanti giorni? 2 giorni. Perfetto, direi che Paolino è messo molto bene. Anche quelli però che hanno scritto sulla nostra pagina Facebook, a Matteo Caccia vendo tutto, sono pro e contro in questo caso la webcam o i rapporti a lunga distanza. Silvia dice: i matrimoni a distanza funzionano se si è stufi del matrimonio, le storie d'amore con tanta passione nei weekend funzionano fino a che non si trova qualcuno per gli altri giorni della settimana. Francesco: ciao, per mantenere vivo un rapporto a lunga distanza bisogna accorciare la distanza, è una bella webcam, è quello che ci serve. Stefano: non riesco a credere nei rapporti a lunga distanza. 800 24 0024 per raccontarmi come fate ad andare avanti con un fidanzato o una moglie lontani, oppure 349 238 6666. Torniamo alla mia webcam, la sua storia è questa qua. La webcam. Webcam C300, marca Logitech, colore nero. Sensore di 1.3 megapixel per video e immagini fisse di 5 megapixel. Compatibile con USB 2.0, tecnologia Right Sound, pulsante snapshot. Dotata di supporto per l'aggancio allo schermo del computer, comprensiva di cuffie con microfono ad archetto. Perfetta per chi ha relazioni a lunga distanza. Valore commerciale 35 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Mia nonna mi ha raccontato che dopo un anno che si era fidanzata con mio nonno, lui è partito per la guerra. Sto parlando di un fidanzamento serio, visto che era il 1944. roba che secondo me in un anno si erano a malapena baciati sulla bocca. Boh, forse no, forse li sottovaluto. Insomma, quello che voglio dire è che a 24 anni, poco dopo aver conquistato il cuore di mia nonna, mio nonno è partito per conquistare la Libia. Ed è tornato a casa con la scheggia di una granata nella mano solo 3 anni dopo. 3 anni dopo. Che a dirlo sembra facile, visto che è una frase di 3 parole, per di più brevi. Però a viverli 3 anni dopo, con tutta la distanza che c'è tra la Bassa Padana e la Libia, secondo me sono stati lunghissimi. Per mantenersi in contatto si scrivevano delle lettere. Lettere che per lo più non arrivavano. Sul fronte non era così facile recapitare la posta. Mio nonno è morto che io ero troppo piccolo per iniziare a riflettere sull'amore, sulla lontananza, e quindi tutta la mia curiosità l'ho riversata su mia nonna. Quando le ho domandato come riuscivano a resistere alla lontananza, senza potersi parlare, senza potersi vedere, lei mi ha risposto: ci pensavamo tanto. Qualche mese dopo esserci conosciuti, anche Giulia è partita. Non andava in Africa a combattere 3 anni, andava in Svezia a lavorare per 6 mesi. Eppure, per come la vedevo, lasciarla partire dopo che stavamo iniziando a conoscerci da poco fu una tragedia. Dopo aver meditato di mollare tutto e trasferirmi là con lei, oppure inventarmi un'epidemia di colera in tutta la Scandinavia per non farla partire, ho fatto la cosa meno rivoluzionaria e più logica che potessi fare. Mi sono scaricato Skype sul mio computer. Erano circa 4 anni fa e io non avevo idea di cosa fosse. Però è inutile dire che quando Giulia è partita ci ho messo pochissimo a capire come funzionava. Avevo solo un contatto, il suo, ma non me ne servivano altri. E appena sentivo il rumore di un messaggio o di una telefonata in arrivo, era chiaro chi era che mi stava cercando. Per circa un mese abbiamo parlato al computer come fossimo al telefono. Poi un giorno, mentre stavo rispondendo a un suo messaggio, si è aperta una finestra proprio in mezzo allo schermo e lei è apparsa, come una nave per un naufrago. Bella, sorridente nella sua stanza scandinava, mi ha guardato e mi ha detto: hai visto? Ho comprato una webcam. La sera stessa anche io avevo la mia webcam, quella che vendo oggi. Anzi, avevo fatto di più. Mi ero comprato anche un router wireless, cioè una scatoletta dove connettere il cavo internet che irradia la connessione per tutta la casa. In questo modo non dovevo rimanere sempre seduto alla scrivania, anzi potevo portarmi il computer in giro per tutta la casa. Mi sentivo un miracolato rispetto ai miei nonni. Un po' perché non ero dovuto andare in guerra, e un po' perché potevo vedere la mia ragazza quando volevo, anche se si trovava a 2000 km di distanza. Il computer era sempre connesso. Me lo portavo dappertutto, sul divano mentre guardavo la tele, in bagno mentre facevo la doccia, pure in cucina, mentre preparavo da mangiare. All'inizio mi sembrava di essere un po' Luke Skywalker che parlava con un ologramma, solo che lei non era la principessa Leila e il mio computer non era C1P8. Poi con il tempo mi ci sono abituato, anzi, con il tempo ha cominciato a piacermi. Ovviamente non gliel'ho mai detto, però il fatto di averla lì grande quanto il mio schermo, di poterla vedere, poterle parlare liberamente, però senza la cornetta da tenere in mano, cioè il fatto che potessimo fare altro mentre ci parlavamo, come se fossimo stati lì sul divano di casa invece che in Svezia, mi dava una sensazione di libertà. Cioè mi sembrava che fosse più facile dirsi le cose, tutte le cose, quelle più belle ma anche le cose più scomode. Il fatto di non avere un corpo che occupa uno spazio, che respira la mia stessa aria, lì, nella stanza con me, mi sembrava che aumentasse la nostra libertà di pensiero e pure di espressione. Boh, probabilmente era solo codardia. Però mi sentivo bene con lei, lì, ma a distanza. Cenavamo insieme, ciascuno davanti al proprio schermo, uno di fronte all'altra, io dalla mia parte del tavolo e lei dalla sua, ma con 2 computer e migliaia di chilometri a separarci. Sì, lo ammetto. Avevo iniziato quasi a preferire questa relazione all'altra. Certo, mi mancava il corpo, mi mancava il contatto fisico, però era come stare insieme, però a debita distanza, un modo per non darsi per scontati. E poi, un giorno è successo. Esattamente come tutte le cose che in breve mi entusiasmano, bruciano come un foglio di giornale, poi fortunatamente si spengono. Ed è andata così. La fiammata si è spenta dopo un paio di settimane. Stavamo parlando del modo in cui lei era vestita per uscire. Cioè, a dire la verità, stavamo litigando su come lei era vestita per uscire. E mentre gesticolavo, mentre mi agitavo per farle capire che forse non era il caso di mettersi quella camicetta così scollata, per un attimo ho alzato gli occhi e mi sono visto. riflesso nel vetro della finestra. Un pazzo che parlava con uno schermo, ma che di fatto era da solo davanti a un computer e gesticolava come un vigile urbano. Ecco, lì è successo, mi sono sentito un cretino. L'ho salutata, ho chiuso il computer e basta con la webcam. Dopo qualche mese è tornata e alla fine ho rivalutato i 3 anni senza sentirsi dei miei nonni e la convivenza in carne ed ossa con lei. Ecco perché, nonostante la Libia, la Svezia e guerre stellari, questa webcam è in vendita. Il suo valore sul mercato sono 35 euro, la base d'asta qui sono 99 centesimi. Per le vostre storie di storie a lunga distanza, 80024 0024. Catherine the waitress, if you only knew where my mind is there anything you'd like? If I could only tell you. You haven't even noticed me, but oh, you are so good to me. Sono le 16.20, questa è Radio 24, 80024 0024 per raccontare le vostre storie a lunga distanza, mentre al 349 238 6666 arrivano i messaggi tipo: ciao, abbiamo iniziato ad usare Skype quando mio marito era in Arabia e noi qui, poi per i viaggi di lavoro quando lui era in Cina, ora con i bambini a Torino lui, a Bergamo noi. Ciao Gabriella, ciao Matteo, mia moglie vive in India, vado a trovarla dopo 2 anni per un mese di vacanza. E goditela. 80024 0024, sentiamo invece Stefano da Brescia. Pronto Stefano? Ciao. Ciao, come va? Bene, grazie. Bravo. Devo dire, sto andando a prenderla per riportarla a casa sua, in aeroporto. In questo momento? In questo momento, sono in automobile adesso, vado a prenderla, l'accompagno a Bergamo all'aeroporto e lei torna. Da dove torna? All'estero. Torna da casa mia, da Brescia. Ah. Torna a casa, per cui è stata con me 4 giorni. Ah, scusami, allora perché lei vive a Parigi? Lei vive fondamentalmente a Parigi, adesso sta facendo un anno in Inghilterra e quindi adesso torna a Londra. Ma lei di dov'è, scusami Stefano, non ci sto capendo niente. Lei è parigina. Ah, ok, ma è lì con te? No, non è qui con me perché sto uscendo un po' prima dal lavoro. Ah, ok, allora perfetto, ho capito. Tu eri al lavoro, lei è a casa tua dopo 4 giorni insieme, la vai a prendere e la porti all'aeroporto. Quindi è un momento, potremmo definirlo, di peste e di morte per te. Abbastanza, ci siamo abituati dopo 2 anni e mezzo, però sì, qualche lacrimuccia parte sempre, diciamo. Quindi di fatto è più triste perché parte oppure anche no? Sì, no, è ovvio, è triste perché non ci si vede più, perché poi dopo 2 anni e mezzo uno vorrebbe... E come fate a distanza? Cosa fate? Ah, sicuramente Skype ci aiuta tantissimo e poi quando si può si parte, insomma. Quante volte vai a Parigi? Come vi siete conosciuti, scusami Stefano? Ci siamo conosciuti a Ginevra, eravamo là tutti e due per un meeting internazionale e via. Senti, poi in Polonia per un po'. È vero che a un certo punto delle storie a distanza, come diceva Laura Faggino un attimo fa, o si quaglia o si chiude? Non lo so, sinceramente non avrei mai pensato di arrivare a 2 anni. Guarda Stefano, adesso sai cosa farò? Sentirò il parere di una donna che secondo me è diverso da quello di un uomo, ok? Grazie mille, ciao Stefano, ciao, buona giornata. La donna la sentiamo dopo, sentiamo un altro uomo. Pronto Emiliano da Bologna? Quei gesti erano per farmi capire che non c'era la donna, era caduta la linea. Ciao Emiliano. Ciao, grazie di avermi richiamato. No, grazie a te, è un piacere. Io sono come te, sto andando a casa a installare Skype. In questo momento? In questo momento, perché la mia ragazza è partita ieri per Londra per lavoro. E quanto sta via? Ma stavolta poco, una settimana, però ripartirà a brevissimo per un periodo più lungo. E da quant'è che siete fidanzati voi? Sono 10 anni. Ah, 10 anni? Sì, allora, due a distanza. Scusami, però la domanda è un'altra allora Emiliano. Cioè, dopo 10 anni perché una parte per Londra? Non so, tu... Perché sta preparando una tesi universitaria a Londra. Questo è quello che ci raccontiamo. E poi invece la verità, no, sto scherzando Emiliano, quanti anni avete? Io ne ho 28 e lei ne ha 23. 23? Sì. Ma state insieme da 10 anni? Sì. Quindi lei ne aveva 13? 15. Ma era legale? Sì, 15 ne aveva. Ok. Sì, ho sbagliato. No, tranquillo, tranquillo. Senti, io ti auguro delle buone chiacchierate su Skype, visto che è quello che ti rimane, e salutami la tua fidanzata, auguro le buon viaggio. senz'altro. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Sentiamo ma Gabriella. Oh, pronto Gabriella. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Senti Gabriella, tu sei quella che aveva il marito in Arabia Saudita. Sì, e quindi sì. Noi vorremmo capire esattamente com'è andata questa cosa. Allora, è andata che lui stava 7 settimane in Arabia, a Riyadh. Che lavoro fa? Allora, è perito chimico. E abbiamo 2 bambini, per cui subito è installato Sky, questo più o meno 4 anni fa anche noi. E per mantenere tutti i rituali, per cui esattamente come te, computer portatile a tavola e computer in camera dei bambini, per cui la sera la ninna nanna rigorosamente cantata dal papà. Su Skype? Su Skype. E questo è durato per 2 anni. E poi ovviamente per lavoro spesso in Cina. E quindi un modo per sentirsi un po' meno lontani. E beh, ma immagino, di fatto da quanto siete sposati? E dunque dal 93. E in questi anni, 93, quindi quanti anni sono più o meno? Sono 17. Sono quasi qui, sì, 17 anni. Sì, 17 anni. 17, e sì. Di questi 17 quanti avete vissuto lontano più o meno? Allora, prima di avere i bambini, anch'io con lui in Africa, quindi non conta. E poi 4 anni. Ok, senti Gabriella, puoi testimoniare a tutte le donne e gli uomini che stanno ascoltando che si può fare? Sì, si può fare, sì. Si può fare, ok. Si può fare, 6 periodi sono brevi, okay. 7 settimane è proprio il massimo. Ok, ok, grazie mille. È bello ritrovarsi. Buona Gabriella, buona giornata e buona giornata, ciao, grazie. Ciao. Andiamo da Vincenzo, la provincia di Salerno. Ciao. Ciao Vincenzo, come va? Ciao, è abbastanza bene. Anche tu avevi un rapporto a lunga distanza? Sì, però un po' diverso da dove è raccontato in radio, perché cioè? Il rapporto è con mio padre, che per motivi di lavoro è stato materialmente una vita sempre fuori, e quindi in relazione a questa cosa, perché navigava materialmente questo... Navigava nel senso che era un marittimo proprio, lavorava sì, sulle sì, navi? Esatto, marittimo, su delle navi, prima a livello internazionale, poi anche a livello nazionale, ma comunque sia... La situazione migliore negli ultimi anni era che stava un mese, 2 mesi fuori. E come poi comunicavate, scusami? Il telefono a un certo punto è iniziato a essere il vettore che ha permesso di poter parlare. Si Chiaro. Aspettava la telefonata più o meno nel pomeriggio, quando in qualche modo attraccava da qualche parte e si parlava. E però insomma era una situazione che non sempre come dire, era facile da gestire, anche perché ci si trovava improvvisamente questa persona in casa quando magari, che so, erano cambiate tante cose. Chiaro. E che ma scusa Vincenzo, e i tuoi genitori sono ancora sposati? Felicissimi, okay. Un rapporto che ha funzionato proprio perché magari a distanza, non lo so, chi lo sa. Certo, ma non lo so esatto. Senti, però mi sembra un buon segnale per quelli che vivono a distanza ancora oggi e hanno quello che voi, che i tuoi genitori non avevano all'epoca. Grazie mille Vincenzo, buona giornata. Io saluto anche Cristian da Milano e Mario da Milano e gli altri che erano in linea che purtroppo non abbiamo sentito. Leggo un ultimo messaggio. Arianna dice: serve un efficiente operatore telefonico e basi solide fondate sul dialogo, altrimenti al telefono fai poco. Grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Per vedere la mia webcam andate sul sito, come al solito, radio24.it. Domani si vende un mini abbonamento. Domani vendo 6 numeri del National Geographic. Se avete una webcam che non è inserita nel computer, liberatevene, che alla fine anche una webcam è solo una webcam. Love, love, love, wherever you go, love, love.